La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. I'm a cartoonist. Mi chiamo Tanio Fatunla. Sono un cartoonist. Sono diventato un fumettista professionista lavorando molto sulla mia storia e la mia gente. Sono nato nel 1961 a Londra. Sono nato a Londra, ma poi mi sono trasferito in Nigeria con la mia famiglia e ho studiato in Nigeria. Tanio Fatunla è un vignettista nigeriano, un cartoonist famoso in tutto il mondo per la grande capacità che ha di raccogliere in poche immagini la sua Nigeria. La sua prima volta inizia tanto tempo fa, quando in Nigeria realizza che può fare fumetti professionalmente e con questi dare voce agli ultimi. Da quel giorno non smetterà mai e la sua strada sarà costellata di successi internazionali. La svolta, la prima e più significativa, giunge quando vince una borsa di studio e vola in America. Lì il sogno diventa realtà. Ma come ha fatto, signor Fatunla, a diventare un cartoonist? E soprattutto, le chiedo, perché ha scelto questa professione? La prima cosa che posso rispondere è: c'era un dono in me, un talento che si esprimeva solo con le vignette, col disegno. Ho vissuto a lungo come un cieco. Non riuscivo a pensare di poter fare il cartoonist come lavoro, ma amavo i fumetti. Trascorrevo la vita a guardarli e leggerli. Ed ero anche un ragazzino impegnato nella società civile nigeriana. A un certo punto, ed ero davvero molto giovane, avrò avuto 16 anni, ho capito che le due cose, i fumetti e l'impegno civile, potevano stare assieme. A quel punto ho cominciato a credere in me e ho vinto una borsa di studio. Sono andato negli Stati Uniti a studiare come cartoonist e ho cominciato a credere nel mio sogno. Tanio Fatunla vive a Londra, ma il suo cuore resta in Nigeria. La Nigeria è un paese molto complesso. Scrive Ojen Ou, giornalista nigeriano, che il paese è una combinazione di mancanza di informazione, di corruzione, di una certa pigrizia all'approfondimento da parte di molti che fanno sì che ogni volta che accade qualcosa viene classificato frettolosamente per poter produrre soltanto una scarna notizia. Non ti preoccupare, figliolo. Entro l'anno 2020 saremo un paese industriale, dice un padre a un figlio, entrambi seminudi e di fronte a un fuoco in un paesaggio da età della pietra. La vignetta è del disegnatore Gado, un vignettista satirico del quotidiano kenyota Daily Nation. Le vignette funzionano molto bene in Africa. Sono armi che arrivano anche a chi non sa leggere. Per questo Tanio Fatunla continua a disegnare e sul suo blog ospita i pensieri dei ragazzi nigeriani che, come dice lui, vanno veloci in giro per il mondo. You find me, oh, somewhere over. dream that you did too. Oh why can't I? La prima volta. Taiyo Fatullah è un ragazzo nigeriano nato a Londra e cresciuto in Nigeria. Per lui, la prima volta ha inizio tanti anni fa, quando lentamente comprende che il suo sogno personale, quello di disegnare, e il suo sogno per la Nigeria potevano andare avanti assieme. La prima volta che tutto questo prende forma in maniera organica è quando Taiyo ha 16 anni e realizza la sua prima vignetta. Ho scritto un fumetto che parlava di diritti umani. In uno di questi ho ritratto uno scheletro davanti alla TV e in TV c'era scritto «Aspettando una nuova Nigeria». Lo ha visto? Le è piaciuto? Ecco, quella è la condizione che vivono le persone in Nigeria. Sa, stanno aspettando da anni una Nigeria migliore socialmente, culturalmente, sul piano educativo, politico, dei servizi. Aspettano e aspettano. L'unica cosa che gli resta è questa infinita pazienza. La gente adora i miei fumetti. Molti ragazzi mi scrivono per dirmi cose bellissime. Ricordano le loro storie. Si sentono raccontati bene da me. Certo, al potere non piace il mio modo di denunciare. Ma sa, i tempi sono cambiati. È difficile per il potere controllarmi, mettermi a tacere. Io vivo a Londra. Ho un blog che parla alla Nigeria e pubblico fumetti per i ragazzini nigeriani. Loro, i ragazzini, discutono di politica sul mio blog. Nessuno può fermare questo movimento meraviglioso. Io sono solo una parte. I politici reagiscono, vogliono mettermi a tacere. Forse qualcuno mi ha minacciato direttamente, ma a me non interessa, sa. Io sono in internet per parlare ai ragazzi. Ogni tanto mi raccontano di ragazzini che stanno cominciando a leggere grazie ai fumetti. E credo che questo sia meraviglioso. Io ho letto tantissimo quando ero ragazzino. E quando disegno, le mie tavole sono molto cariche di disegni forti, che spesso fanno ridere, perché penso e scrivo per quei ragazzini, per quel ragazzino che ero io. Lei è una giornalista, scrive, parla alla radio. Si è accorta di come l'Africa, quella dei giovani, sta andando veloce. Oggi i ragazzi non sono più solo nigeriani, sudafricani. I ragazzi sono nel mondo. Viaggiano con internet. Parlano. Si trovano da una parte all'altra del mondo. Denunciano, scrivono. È tutto così meravigliosamente forte e bello. Io sono solo una parte di questa storia. In questo momento, mentre noi parliamo, i ragazzi scrivono e chiedono stabilità politica, giustizia. Forse non la otterranno, ma stanno facendo pressione. Stanno a modo loro cambiando le cose. Ecco, tutto questo mi fa sperare. Mi fa continuare a sperare in una Nigeria migliore. Io ci credo. Io credo che ce la faremo. Noi siamo un paese ricco, ricco di petrolio, per esempio, reso povero dagli altri. Quello che vedi in Nigeria è uno strapotere nelle mani di pochi e tanti poveri. Questo è un mondo che non può funzionare, non può reggere. Nigeria for you, and we'll continue to get better, I believe, and I'm hoping that things will change. And Nigeria is rich. Nigeria has oil, and they have to use it to the fullest. I mean, when and Nigeria has the oil, has the resources, but yet with all the oil it has, people are still suffering. People are still suffering even in the area of the late Ken Saro River. And that's where all these problems are coming up, because people think they have oil and they're not benefiting from it. So I'm hoping that Nigeria will change for the better and be able to make its people very, very happy. Ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no work, ain't got no job, ain't got no money, no place to stay. Taio Fatulla nasce a Londra nel 61. Va a scuola in Nigeria, però. È stato quando ha vinto una borsa di studio per gli Stati Uniti che la sua vita e il suo sogno sono decollati. E il suo desiderio era quello di raccontare l'Africa, la Nigeria, denunciare la violenza e l'ingiustizia che il popolo nigeriano continuano a subire. Nel 2001 Fatulla riceve un premio in Francia per il contributo apportato al mondo dell'umorismo giornalistico a livello internazionale. Per le sue capacità artistiche viene coinvolto in molti progetti dall'UNICEF e dalle Nazioni Unite. Il successo gli permette di raggiungere più ragazzi e scoprire e sperare ancora per un'Africa nuova e forte. Perché in fondo, come diceva Nina Simone, possiamo partire dal punto più basso, non avere nulla e avere in noi tutto quello che ci serve per andare e arrivare al centro del nostro mondo. La prima volta termina qui. Vi ringrazio per essere stati con noi, vi rinnovo l'appuntamento sempre domenica, sempre attorno alle 13. Potete scriverci all'indirizzo laprimavolta@radio24.it, potete riascoltarci in podcast. Buona giornata a tutti, da Cristina Carpinelli. I've got lives. I've got headaches and two